avec des yeux opaques, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme. Quanto avete avuto a che fare con dei bambini in questi giorni? Beh, devo dire che le nuove generazioni sono al centro dell'immaginario di tutto il paese, sono stati i protagonisti del discorso del Presidente della Repubblica, aperto ai giovani. I giovani hanno fatto sentire la loro voce sullo scadere dell'anno passato. I giovani saranno i protagonisti delle nostre speranze, delle nostre illusioni, delle nostre certezze. Beh, oggi vorrei fare un excursus sui giovani nella fase in cui ancora fanno tenerezza, in cui ancora loro si perdona tutto, in cui ancora sono il rumoroso e delizioso accessorio delle nostre giornate, anche perché immagino che in queste ultime settimane ne avrete avuto abbastanza, soprattutto quelli che non sono provvisti autonomamente di un necessario corredo di infanzia, avranno dovuto piacevolmente sopportare quello altrui. Cosa avete visto mutare nel panorama dei ragazzini? Quali sono i cambiamenti nel rapporto tra grandi e piccoli, nella gestione dei piccoli, nei piccoli che gestiscono i loro genitori, le loro zie, i loro nonni? Beh, devo dire che già immagino quelli che saranno la cateratta dei cinismi, dei luoghi comuni, delle bimbo minchiate che sarete tutti pronti a sottolinearmi, e ben ve ne accoglierò all'800240024. Però vorrei riflettere, proprio perché voglio aprire l'anno con una trasmissione che non sia il solito catastrofismo nicolettiano, e con l'indicazione di una sorta di linea comune, eterna, immutabile. I bambini sono sempre stati gli stessi, non sono cambiati, non è cambiato nulla, non è vero. Siamo noi che ogni volta ci sembra di vedere dei segni terrificanti di apocalissi prossime guardando la degenerazione dei costumi dei ragazzini. In realtà sono sempre stati uguali e questa mattina ve lo proverò. Non ti voglio stare qua, non ti voglio stare. Amore, mica stai sola, stai col signore, mi raccomando. Stai buona, penso io. Nessuno ti ha mai sentito cantare? Io non canto mai. Non le conosco le canzoni. Quella è la carta sana che deve andare. Oh, è troppo giusto, signore. Papà, non trovo parole per esprimermi. Ne trovo una sola. Vergogna. Questo è un dolce che ho fatto con le mie mani. Lo mangerà durante il viaggio. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Ancora telefonicamente collegato, perché lui recentemente appesantito da un infante che è caduto come un frutto benedetto sulle sue fragili spalle, quindi ancora è lì a cambiare pannolini. Però mi sembra che cadi a fagiolo questa mattina, perché io quello che vorrei cercare di mostrare, e tu me ne darai doveroso supporto, è che in realtà la galleria degli orrori infantili che vediamo rappresentata nella nostra società, soprattutto nella distorsione televisiva, in realtà appartengono alla nostra tradizione, perlomeno sono stati immortalati nella commedia cinematografica degli ultimi 50 anni. Tutti bravo, bravissimo, tutti i giovani che cantano nei concorsi canori, che sulle reti concorrenti si contrappongono a colpi di bambini canterini, in realtà con voci da adulti, bambini di 10 anni già con voci di consumati tenori, oppure ragazzini rompiscati, ragazzini tiranni, ragazzini saccenti, i ragazzini cresciuti anzitempo, beh, già facciano parte di questo immaginario. Sì, hai citato un film, abbiamo appena ascoltato, bravissimo, di Luigi Filippo D'Antico del 55, in cui c'erano già appunto i concorsi per bambini, e la storia di questo maestro, tra l'altro precario, molto attuale, che vive nella periferia romana e fa il dopo scuola perché non ha un posto a scuola, fa il dopo scuola ai ragazzini, ai figli dei carcerati della borgata, e li porta sotto l'acquedotto Claudio a raccogliere la cicoria per il suo pasto frugale, e si imbatte in questo ragazzino che ricorda molto un Arnold sbiancato, uno dei tuoi miti, Gianluca, l'Arnold che hai citato più volte, E questo bambino ha una caratteristica particolare, ha delle tonsille enormi, un freak alla Todd Browning che ha una voce da baritono e comincia a cantare arie rossiniane e lui capisce che può essere la sua gallina dalle uova d'oro e lo diventa, però poi matureranno un rapporto umano, ma la chiave di fondo è che lui può utilizzarlo nei concorsi canori che già all'epoca c'erano, è meravigliosa una scena tra ragazzini, tra i bambini prodigio che discutono delle questioni contrattuali fra di loro, non ci facciamo fregare dai nostri genitori, insomma è molto attuale, molto, molto profetico come Sentiamo un attimo perché è interessante capire questa mutazione genetica in un bambino che ha appunto la voce da baritono che somiglia tanto oggi ai giovani protagonisti dei concorsi televisivi che in fondo è la parte più ricca della televisione, la parte più fruttuosa, quella in cui vengono mostrati dei bambini che manifestano delle doti eccezionali, le doti sproporzionate rispetto alla loro giovane età. La ricerca del piccolo mostro, del piccolo prodigio è sempre stata una ricerca dello spettacolare e appunto il film che ha citato Giuseppe Sanson ne è una prova anzitempo rispetto appunto a quello che oggi vediamo in televisione. Buona, che mamma torna. Non ti voglio stare qua, non ti voglio stare. Amore, mica stai sola, stai col signore, mi raccomando, eh. Stai buona, penso io. Oh, oddio, Gigi, che ti è successo? Che hai fatto? Niente. Ma come niente? Ti senti bene? Sì. Ma tuo padre lo sa che c'hai sto vocione? Non ci sta mai. Non ci sta mai. E la gente? Nessuno t'ha mai sentito cantare? Io non canto mai. Non le conosco le canzoni. A casa non ci abbiamo la radio. Ma Gigi, perché non mi avevi detto che c'avevi visto vocione? Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Allora, Giuseppe Sanson, abbiamo visto e ascoltato due bambini accanto a due genitori. Da una parte il piccolo baritono che dovrebbe fare la fortuna di Ubaldo Impallato, che è Alberto Sordi, questo povero, miserabile maestro che alla fine spera sulla voce del bambino di fare la sua fortuna, e Maddalena Cecconi, la mamma di Bellissima, l'indimenticabile Anna Magnani. Si dice sempre l'indimenticabile Anna Magnani, non so perché alcune persone hanno indimenticabile facente parte del loro nome e cognome, che è la protocreatura poliforme e mostruosa di tutti i concorsi, tutti gli Zecchini d'Oro, di tutte le Gigliole Cinquetti, di tutte le bambine che dovrebbero far fortuna attraverso appunto la capacità di essere spettacolari. Sì, sono due film coevi, sono tutti e due dell'inizio degli anni 50, solo che Bellissima questa Magnani, che è la piccolo borghese metafisica di quegli anni, che pur vivendo una borgata ha la smania, che è tutta nella sua essere parletica, nel suo monologo spropositato, la sua concitazione piccolo borghese di affermarsi attraverso la bambina. Quindi le fa che sarà la coatta ripulita poi degli anni 70 e 80, ecco. Sì, la bambina è normalissima, eppure lei la vuole presentare a Blasetti, che è il monumento di Cinecittà. Blasetti fa la parte di se stesso, regista già dei Telefoni Bianchi. E quindi oggi sarebbe Maria De Filippi una corrispondente, qualcosa del genere, capito? In quanto istituzione, certo, coincidono i due poli. I nocchieri del passaggio della Cheronte all'indifferenza, dal buio del non essere nessuno alla luce diventare qualcuno. Esatto, la smania è tutto in questo suo parlare frenetico, in questo portarla a fare lezioni di canto, e la bambina appunto urla non ci voglio stare qui, è una costrizione, è qualcosa che le cala dall'alto e la costringe a una iperrappresentazione della madre, delle frustrazioni della madre, ma questo è un archetipo che ritorna quasi in moltissime relazioni genitoriali. Comunque Giuseppe, in questi due film vediamo un primo punto comune, e in questo cercherei di coinvolgere il pubblico all'800240024. Mi sembra che il punto comune di questi due film è di un clima, di un'area che si potrà respirare appunto negli anni della rinascita, negli anni uno del 51, Bellissima, l'altro del 55, Bravissimo, quindi si era nel primo decennio dell'uscita dalla guerra, in cui sembrava che tutto facile, che fosse tutto in velocissima risalita e via dicendo. L'idea che il bambino rappresentasse una grande risorsa. Oggi si dice la speranza del paese sui giovani, già da allora la speranza del paese era sui giovani, ma nel senso che i giovani potevano diventare una sorta di fabbricatori di zecchini d'oro della loro famiglia. E quindi la ricerca del talento, la ricerca dell'eccellenza, non giovani da costruire per una laboriosa vita normale, ma rettilinea, ma un salto eccezionale nel mondo dello spettacolo. Quindi l'Italia già gettava le sue basi economiche, sociali, della speranza, della rinascita sul fatto che comunque il talento, oggi chiamiamo il talent show, sarebbe stata la chiave risolutiva di tutti i problemi. Sì, poi il bambino deve essere addobbato da adulto, come a un'esposizione canina, devono avere la voce da tenore, da barigiano, devono essere bravi come dei grandi, ma in realtà sono dei bambini ed è giusto che lo siano, e forse ha senso che lo siano, ma questa eventuale spontaneità non interessa, l'importante è sceneggiare, inscenarli. C'è una vignetta di disegni bellissima che irride quei programmi tipo Io canto e via dicendo, che ci sono in televisione. Il bambino dice ai genitori: perché mi andate in televisione vestito da pappone? È vero, vengono vestiti con questi gessati, con queste cravatte enormi, con queste camicie improbabili, come se dovessero rappresentare il massimo dell'obrobro estetico nella rappresentazione del potere economico, della ricchezza, del potere, appunto il pappone. Certo, c'è una perversione sadiana da 120 giornate di Sodoma. Qui era maestro il compianto Mike, come ricorderai, insomma, quei bambini, l'angariatore di bambini, insomma, un iniziatore in questo. Andiamo avanti. 800240024, cosa vi suggerisce questa analisi sui bambini nella storia del cinema italiano, che tanto somigliano ai bambini che fanno parte della nostra storia familiare odierna? C'è da ridere, da un coso, credete d'aver fatto? Fatta, cinque prima no, mi scappa. Egregio amico, la prima partita è dei fessi, del resto giocavamo piccolezze, ecco. Il gioco l'intero palazzo, dalle cantine al tetto. Avanti, scopassetto. Siete pronto? Sì, sì. È bella pigliata. E se questa non è fortuna, come la chiamate? È quella la carta asata che deve andare. Oh, è troppo giusto, signore. Quando è così? Giornali, se tu sapessi quando mi fai toccare il nervo quando dici sti cose sballate. Ecco, qua c'è un'altra figura del bambino che in realtà è più saggio dell'adulto. Qua è Vittorio De Sica con il demone, il vizio del gioco, che viene interdetto, gli viene proibito di giocare, e si sfoga facendo delle partite a carte col figlio del portiere, che deve naturalmente fingere di perdere quando in realtà lo vincerebbe subito, e gioca una figurina. Giuseppe Sanzon. Quindi qui il bambino disvela appunto le meschinità dell'adulto. Per il bambino il gioco è sacro, è serissimo quando gioca, invece per l'adulto... Anche se gioca a figurine, invece per l'adulto il gioco può anche essere una meschina messa in scena, appunto perché poi De Sica, pur perdendo regolarmente le partite, ovviamente non darà le proprietà al figlio, al miserabile figlio del portiere. Perché lui è interdetto, non ha più nulla che può giocarsi, naturalmente. Finzione, quindi il bambino viene costretto dal padre dal padre portiere a essere lo sparring partner di questa messa in scena. E qui c'è De Sica, sublime in un ruolo anche autobiografico, l'uomo, il nobiluomo perso, finito nel baratro del gioco, nel gorgo del gioco, che mantiene questa nobiltà. E qui appunto il bambino serve semplicemente, che gioca una scopa, un gioco tipico di chi gioca soldi a carte, un gioco da signore, da nonne, nipotini, giocare a scopa. La roulette è bella che è andata sullo sfondo per il povero De Sica in questo caso. Quindi il bambino in realtà mette il dito sulla piaga dell'inadeguatezza adulta. Questo è una tradizione sempre negli anni 50, ma già nella sottigliezza di De Sica, sia regista che interprete, si evidenzia proprio questo, come i nervi scoperti vengono fuori a causa del bambino, dello sguardo bambino. Oggi è molto frequente, questo dico agli ascoltatori per cercare di dare loro degli spunti di intervento, vedere questa cifra di saggezza nelle generazioni più infantili rispetto ai loro genitori. Io ho un figlio in particolare che mi riprende quando me ne escono espressioni non proprio corrette, anche in una sorta di lessico familiare. Insomma, io non posso dire parolaccia a casa mia, perché mio figlio dice: papà, non si dicono. Cosa che è esattamente l'opposto di quello che accadeva nella mia tetra fanciullezza in cui mi veniva messo il pepe in bocca se soltanto dicevo stupido, cretino, che già veniva considerata parolaccia. Beh, in questo rovesciamento di ruoli rivedete qualcosa della realtà che vi circonda. 800240024. Papà, posso venire a stare con te? Devi venire a vivere con me. Adesso appena arriviamo dalla mamma gliene parliamo, eh? Perché io e te insieme stiamo bene, no? Sì. Prendiamo un bel appartamentino, anche piccolino. Tanto siamo due soli, io e te, e ci viviamo dentro. Posso avere un cane? Un cane? Accidenti, piacerebbe anche a me un cane. Vedrai che bella vita. Al mattino sveglia alle... Alle sette. Tu sei matto? Alle otto, alle nove, anche alle undici. Allora non vado a scuola. Ma che ti importa della scuola? Se non hai voglia non ci vai. Ti insegno tutto io. La scuola non serve a niente. Guarda me, non sono mai andato a scuola eppure... Ecco, questo tre film proposti da Giuseppe Sansonna proprio per stabilire e per supportare questa mia idea che in realtà poco sia cambiato nell'osservazione del mondo degli adulti da parte dei ragazzini e negli adulti che si rapportano con i ragazzini e in tutte le tipologie bestiari dei ragazzini, è quello che più mi sembra attuale. Oggi si parla molto del problema dei padri separati, dei padri non gestire i loro figli alcuni giorni a settimana, ma già nel 63 questo film Il giovedì di Dino Risi vedeva Walter Chiari alle prese con questo problema che sembra modernissimo ma in realtà era già da allora attuale. Sì, il giovedì è la giornata in cui lui può vedere suo figlio, ma non lo vede da tempo, infatti quando va nel collegio tedesco rigidissimo... In cui perché era il giorno di libero, sì, delle serve, come si diceva allora, quindi è chiaro, il giovedì se lo pigliava il padre, il figlio. E quindi in questa giornata lui cerca di mettersi in scena davanti al figlio come padre, quindi affitta una Cadillac, ostenta amicizie e legami professionali che non ha, ma il figlio è molto più scafato di lui. Che ha 8 anni poi, è un bambino piccolo. Sì, però ne riconosce la fantasia bambina, appunto, l'inadeguatezza adulta di Walter Chiari, e quindi, però ciononostante, al termine della giornata si creerà fra di loro una sintonia. Il padre è una sorta di boccata d'aria, d'ossigeno rispetto alle restrizioni materne, al mondo del collegio, infatti nel finale abbraccerà affettuosamente il padre mentre si stanno separando. Il film purtroppo non ebbe un grandissimo successo, anche se è una perla nella cinematografia di Risi, perché diceva Risi che Walter Chiari, che era un genio del monologo, però non aveva occhi, e al cinema gli occhi sono fondamentali, quindi ci volevano due occhioni da canaglia spaurita, diceva Risi, il padre come canaglia spaurita in questo caso, e quindi forse ci voleva Tognazzi in questo caso. Ma c'è da dire che rispetto ai tempi il problema esisteva sicuramente, tanto è stato rappresentato in un film, forse non era così comunemente sentito come problema di massa, diciamo la verità, per quanto le separazioni fossero pure frequenti in quegli anni, era più facile affogare tutti i disagi della coppia in matrimonio da non stare assieme a tutti i costi, quindi era un po' più difficile un padre separato che gestisse un figlio una volta a settimana, perlomeno era già una cosa da classi molto elevate, che normalmente la gente se ne aveva i propri problemi, viveva nel buio e nel silenzio, affogava i propri risentimenti e tirava avanti. Mi sembra che era più questa la linea comunque di condotta. Infatti Risi forse fa riferimento proprio alla sua stessa classe sociale, infatti parla di, è spietatamente autobiografico in questo, e infatti Walter Chiari incontrerà un industriale a cui aveva rifilato una sola e che lo umilierà davanti al figlio disvelando tutto il castello di carte. Ecco, certo, racconta di questo milieu, non certo di quello per esempio della Magnani di Bellissima, ecco, siamo in un tutt'altro contesto, certo. 800240024, andiamo avanti. Arrivederci, ciao bambini. Signora, questo è un mazzo di fiori che l'ho portato per lei. Sei gentile. E questo è un dolce che ho fatto con le mie mani. Lo mangerà durante il viaggio. Grazie. Hai degli occhi molto belli. Ma strani. Buongiorno signora. Posso avere i suoi biglietti? Giuseppe, questo è il finale dello scopone scientifico? Sì, film di Comencini, che è stato un maestro nel raccontare i bambini. Questo è uno dei più bei personaggi infantili del cinema italiano, Cleopatra, la figlia dello straccialoro Sordi e della moglie, la Mangano, che giocano a carte in questa estenuante partita infinita con i ricchi americani che arrivano una volta all'anno per giocarsi come il gatto col topo, regalano il milione del signor Bonaventura a questi due borgatari e per giocarsi questa partita in cui ovviamente vince sempre chi ha più soldi. E Bette Davis è curioso che interpreti questo ruolo da strega cattiva, che poi invece riceverà lei dalla bambina questa torta avvelenata, riceverà lei la mela avvelenata, cioè un rovesciamento. Ecco, spieghiamo il contesto. Ci sono due società che si contrappongono, quella dei borgatari, ma quando la borgata era qualcosa molto più simile a una baraccopoli che a un luogo dove civilmente si viveva, che giocava tutte le proprie speranze quando una volta l'anno arrivava questa miliardaria appassionata col gioco e che si confrontava con la coppia dei gladiatori dei borgatari, che erano appunto Alberto Sordi e la moglie, e miseramente lui farà vincere la signora perché farà uno sbaglio madornale, cialtrone come sempre nei suoi personaggi, e quindi torneranno con le pive nel sacco. Sì, è inevitabile che vinca il potere, vinca la Bette, e non può non vincere, perché il momento in cui viene incrinata la sua smania bambina, ecco, lei è una vecchia bambina, una strega bambina, tra l'altro uscita il suo personaggio di Enfant Prodigio, che fine ha fatto Baby Jane, vi ricorderete la Bette Davis che era la bambina prodigio, appunto costretta dai genitori a essere una piccola ballerina. Vedi che c'è un passaggio di testimone però indelebile fra di quest'idea del talento, del successo dei bambini eccezionali. Hai ragione, Baby Jane, terrificante, una storia di un drammatico da far venire i brividi, una rivalità tra due sorelle, e questo rievocare da parte di una vecchia che rimette i panni, ricanta le canzoni di quando lei era bambina, è come rivedere oggi un'eroina dello Zecchino d'Oro sul far dei 50 anni, allora anche peggio perché ne aveva già 70 e oltre, probabilmente era proprio vecchia era quando faceva questo film, o perlomeno rappresentava una persona molto anziana. Molto anziana, molto vicina alla strega di Biancaneve. In questo caso però il ruolo del bambino, cioè di Cleopatra, di questa bambina, è di disvelare quanto sia sterile, inconcludente e massacrante questa partita eterna che giocano a carte con la vecchia miliardaria, e quindi l'unica risoluzione possa essere quella di uccidere la vecchia per far finire il gioco al massacro che coinvolge i suoi genitori. Abbiamo al telefono Francesco. Francesco. Sì, buongiorno. Niente, volevo ricordare, appunto, come ho detto alla interlocutrice precedente, che il modello che ha ispirato Bellissima, italianizzandolo molto, è quello di Shirley Temple. Shirley Temple è rappresentato negli anni in cui è uscito Bellissima e anche nel decennio precedente un modello, no? La meraviglia di una bambina che sapeva cantare, ballare, recitare. In realtà è una capocciona con i riccioli, con i boccoli fatti ai ferri, orribile. Bravissima nel ballo, nel tip tap soprattutto, e quindi il successo che arrivava da questa America che era mitizzata nel dopoguerra, l'America era il mito di un americano a Roma, di Alberto Sordi, no? L'idea proprio che l'America poteva risolvere tutti i problemi. E ugualmente Shirley Temple, bambina prodigio, il modello, se si arrivava a imitare quel modello si poteva ottenere poi l'affermazione anche personale come genitore. Quindi diciamo, assieme al piano Marshall, ci siamo ereditati anche il fatto che i figli erano la miniera d'oro dei genitori qualora fossero indigenti, e i figli soprattutto indirizzati verso la via del successo. 800240024, ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ho traslocato in casa di un amico del babbo. Che è? Il diario che la signora maestra ci fa tenere alla fine di ogni giornata. Brava, intelligente codesta maestrina. Lui dice di essere conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese. Tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni e un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di due uova che abbiamo mangiato in tre. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire. e mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello un aggeggio di tre locali. Loculi. Di tre loculi, dove mi toccherà dormire assieme alla moglie, una donnetta secca e rifinita come il suo nome, Alice, e la figlia Mela, che per fortuna... 800240024, ahimè, com'è implacabile l'occhio del ragazzino che guarda nelle sue miserie, nei suoi camuffamenti, l'adulto, in questo caso il conte Mascetti. Giuseppe Sansonna, stiamo tracciando un duplice sguardo del mondo degli adulti visto dai bambini, e i bambini visti dagli adulti, usati dagli adulti, sfruttati dagli adulti per accrescere il loro potere d'acquisto, il loro benessere, via dicendo. L'ultimo ascoltatore ci ha lasciato sul modello Shirley Temple. Sì, è vero, tra le mostrificazioni bambinesche possibili è uno dei modelli più fulgidi, in effetti. Sì, la mania di spettacolarizzazione del bambino, appunto, quello di utilizzarlo come star, come un adulto. È bravo e interessante perché sa fare tutto quello che sa fare un adulto. Qui invece il pezzo che abbiamo appena ascoltato è tratto da Amici miei, e il figlio implacabile, occhialuto e saccente figlio del Perozzi che disvela il castello di carta del conte Mascetti, del decadutissimo conte Mascetti, che vive con Milena Vukotic e con la figlia in questo sottoscala e si atteggia a nobile. E quindi la radiografia impietosa di un adulto inadeguato, un ennesimo adulto inadeguato che passa la vita col padre e con gli altri amici a fingersi eterni ragazzini, anche attempati cinquantenni. Questo è appunto un'altra, è un bambino che è molto lucido, molto, molto spietato anche. Ma di bambine clone delle madri se ne vedono spesso, oggi è un'appariscente maniera per prolungare la propria avvenenza o il proprio desiderio di centralità di molte signore, portare dal parrucchiere le bambine, fare la stessa messa in piega, lo stesso taglio, lo stesso colore di capelli, e costruirle, vestirle, firmarle come le madri, portarle dietro come se fossero dei preziosi cagnolini di altissimo lignaggio con il collare di diamanti. Stefano, buongiorno. Stefano. Sì, pronto, sono qui. Ho sentito poi quel discorso che avete fatto poco fa di queste bambine che venivano combinate come dive, come in un certo modo. Mm-hmm. E sono fatto comunque, quindi però stavo parlando un po' come se fosse un ambito esclusivamente italiano. Io ho visto, mi ricordo, all'epoca quando ero ragazzo, un fumetto americano, era il famoso fumetto degli antenati, in cui Fred Flintstone le voleva presentare la figlia Petula, così si chiama Petula, per un film western, e la presenta tutta con la messa in piega e tutto quanto, e praticamente non l'accettano. Dopo praticamente facevano il regista che si lamentava, diceva l'hanno truccate tutte in quel modo da vive. Quando casualmente incontra dopo questo Fred con la figlia nel suo aspetto naturale, l'accettano invece, gli piace, e questa è la morale. E quindi una massima di saggezza che ricorda nella sua lettura fanciullesca degli antenati, dei Flintstone. Certo, vedi, è una cosa essere spontanei, naturali, tutto questo, come infatti pure avete criticato poco fa, tutte questi ragazzi tutti che venivano combinati, cioè, incravattati, o queste mode adesso, queste bambine che insomma vengono, non sono naturali, vengono tutte... Vabbè, ma i figli sono l'esito dei genitori, e molte volte questo esito si appalesa anche in delle forme esteriori molto, molto percepibili. Alcuni genitori ci tengono a far vedere che i figli sono l'esito di se stessi, quindi li costruiscono come dei se stessi in miniatura, altri se ne sbattono e li mandano per strada così come viene. Antonella. Buongiorno. Io volevo segnalare due film in cui questa situazione di bambini che accettano i genitori comunque siano, che sono Era mio padre e Pater Moon, cioè i bambini sono molto meglio in tutti e due i casi dei genitori, però comunque non c'è acredine verso i genitori, i bambini accettano anche con un sorriso, insomma, quello che fanno i genitori, pur capendo la situazione, cioè non sono bambini imbrogliati, sono bambini che capiscono e abbozzano. Ma diciamo che l'occhio dei figli sui genitori è sempre un occhio misericordioso, al di là di quello che si dice. Tendono... Esiste un'età in cui si comincia a percepire, di questo ne ho ricordo, e tremo pensando che di essere il soggetto di questa osservazione, in cui ci si rende conto... So cosa... ci si rende conto che i genitori poi non sono questi dei scesi in terra che pensavamo all'inizio della nostra avventura esistenziale. Si comincia a vederne i limiti, i difetti, gli aspetti grotteschi. È come un amante quando passa di mano ormai, che si comincia a sentirne il fiato che è un po' pesante. Ecco, quando il figlio comincia a vedere i genitori nelle loro meschinità, nelle loro paure, nelle loro piccole menzogne, è favoloso, perché è il momento in cui si comincia a crescere, non è d'accordo? Sì, sono d'accordo, e lei poi non pensa che c'è sempre più benevolenza da parte dei figli verso i genitori che non dei genitori verso i figli? Eh sì, perché i genitori sono rabbiosi perché vedono sfuggire la loro giovinezza nell'età adulta dei figli. I figli già si preparano a cambiare il pannolone al genitore come lui ha cambiato il pannolino, quindi è uno sguardo rassegnato, è uno sguardo pietoso. Sì, quello. Le mette tristezza questo? Sì. Le mette tristezza? Un po', però, non insomma, dà anche qualche bella idea sul futuro, cioè il futuro è meglio di cosa noi pensiamo. Se i figli hanno benevolenza è una cosa bella che porta avanti, se i figli avessero credine tutto si ferma lì. Cioè, se no va a finire come parenti serpenti, ne abbiamo parlato, esatto. Sul finire dell'anno, esatto. Ci fanno saltare in aria con la bombola del gas, quindi è sempre speriamo meglio. Di no. Grazie, auguri. Di no. Anna Rita. Pronto? Eccomi, Anna Rita. Buongiorno, sono nonna Rita. Nonna Rita? È una nonna, ci voleva. Vabbè, nonna, mica io sono zio Gianluca o papà. Buongiorno, Giuseppe. Niente, io sono intervenuta perché... Perché ha aggiunto nonna al suo nome? No, io mi chiamo Rita, ma sono una nonna di 4 bambini. È fiera di questo? Come? È fiera di questo? Molto, molto, soprattutto perché io quest'anno nei 2 grandini, uno che ha 13 anni e la bambina 11... ho preteso che come regalo di Natale non mi regalassero niente, non mi mandassero gli auguri tramite telefonino, ma che mi scrivessero una letterina. E perché, poverini? Perché i bambini non scrivono più. Vabbè, perché non è necessario, è un atto contro natura. Oggi ci sono altre forme per esprimersi anche in maniera scritta. Hanno delle tastiere per scrivere, perché necessariamente non prendere la penna? Perché così la letterina rimane, la nonna se la può leggere, rileggere come un regalo che... Perché è un gesto arcaico che lei piace e le ricorda, sì, comunque le lettere, sì, d'amore, perché non è vero che non scrivono, lo dico non per spirito polemico, scrivono molto di più di quanto scrivesse la mia generazione, noi non scriviamo mai, oggi scrivono tantissimo, scrivono in maniera diversa, sì, forse sì, sincopata, forse usando delle protesi invece che delle penne, che pur anche sono delle protesi, è una mutazione, lo dico perché... Mantenersi, sì, giovani significa capire come mutano anche le forme espressive. La letterina è bella perché è un sacrificio per loro scrivere a penna. Pensi quelle povere ditine costrette a scrivere con la penna che non sono più abituate. Quindi, Però a me è piaciuto molto invece questa letterina, questo pensiero che il mio nipotino più grande mi ha scritto. È un pensiero poetico che mi ha scritto. Perciò questo non sarebbe rimasto nel telefonino, diciamo, perché poi... Uno può mettersi, può tenere in memoria tutti gli sms che vuole, può stamparsi. No, perché dopo anni vanno via, io sono sicura di questo, anche nel computer. I nostri computer sono le scatole dove tenevamo tutte le nostre cose, io ho 70 anni, perciò questa letterina morirà con me nella scatola di cartone. Vede signora, dico guardi, non perché voglio, sì, fare quello che per forza è appassionato alle cose moderne. La scatola di cartone, abbiamo detto più, sì, volte, con le foto dentro. Sì, l'ho sentita proprio da lei. Sì, è un supporto di memoria necessario. Uno, sì, la apre, guarda le foto, ricorda, ad ogni foto è legato comunque, si riaccende una sinapsi, si risente un odore, si vede una persona, si immagina un amore passato, un figlio, un compleanno, un battesimo, a seconda, sì, delle varie... I supporti elettronici più o meno funzionano alla stessa maniera, guardi. No, io non ce l'ho, non so neanche usarlo. Sì, vabbè, comunque... ma non se faccia solo un punto di orgoglio. Sì. È semplicemente cambiato. Ritrovare dei vecchi, riversare dai vecchi CD perché si usurano, bisogna metterli in supporti più moderni, il nostro passato digitale, che ormai è tanto, il mio passato digitale sono decenni, sono quasi 15 anni, capito? Quindi è tantissima roba. È un volume, se fosse stampato, 100 volte più grande di tutte le letterine del mondo, ridà le stesse sensazioni, cambia il supporto, cambia il metodo, non detto sia meglio o peggio, però noi abbiamo sempre questa capacità di appoggiare, come stiamo facendo con Sansone nel caso dei film, i nostri ricordi a immagini, perché noi non abbiamo una memoria così sveglia che richiama subito in superficie tutto quello che abbiamo visto o sentito. Giuseppe Sansone. Sì, qui si si parlava del rapporto con i genitori, con le inadeguatezze, anche con però mi piaceva questa cosa arcaica anche della signora, della scatola, dei ricordi, chissà che cosa però hanno scritto la signora. Sarebbe interessante anche vedere i contenuti di queste lettere, rapportandosi a un mezzo che non è più il loro, cosa le hanno scritto nello specifico, insomma. Beh, sai, andando per paradosso questa linea, uno potrebbe chiedere anche a un figlio: prendi martello e scalpello e prendi una lastra di pietra e scolpiscimi su pietra, come veniva fatto, un tuo pensiero, capito? Oppure ricorre all'alfabeto cuneiforme per lasciarmi dei supporti. Però vedi, nel paradosso capisci che in realtà è lo stesso meccanismo, non cambia nulla, cambia solamente nulla, cambiano i supporti, cambia la maniera. Ormai è dato accertato che la memoria umana si appoggia a un supporto come la scrittura, che faceva tremare di scandalo tutti quelli che pensavano che l'avvento della scrittura avrebbe cancellato la possibilità di mantenere in memoria il proprio passato. Vedi, lo abbiamo lo stesso in memoria. Certo, ci appoggia, abbiamo bisogno di qualcosa di esterno a noi, come noi abbiamo bisogno, Giuseppe, di ricordare attraverso dei film, cosa che facciamo da più di un anno, quelli che sono alcune linee di pensiero, processi emotivi che hanno attraversato il nostro paese. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. De vue se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Papà, io per te ho fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato nella vita. Che hai fatto per me? Io ho pianto. Hai pianto? Hai visto chi sono io? La moglie di un mercante di morte. E noi figli del cobra. Papà, non trovo parole per esprimermi, ne trovo una sola. Vergogna, vero mamma? Sì, caro. Posso anche cambiare mestiere, sì. Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche, che è un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400 mila lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce, tutti. 800 24 00 24, in questo invettiva del mercante d'armi, Alberto Sordi di fronte alla famiglia che vuole essere politicamente corretta nelle esteriori rappresentazioni, ma schifosamente soggetta allo zozzo mestiere del padre. C'è anche una chiave di lettura che abbiamo sentito molte volte, andando avanti negli anni. Sarà il piccolo industriale che ha fatto il passo più lungo della gamba, sarà il commerciante che non ce l'ha fatta a pagare i debiti, o sarà il normale professionista che deve mantenere un livello di vita superiore alle possibilità, il passo più lungo della gamba. Giuseppe Sanzonna, sì, il film era... Sordi, nel film che c'è guerra c'è speranza, è questa sorta di apologo sul declino della società occidentale che propone il ruolo di padre che vive questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mr. Hyde come venditore d'armi per avere una famiglia rispettabilissima con piscina. Poi c'è questo figlio che parla con la R. Moscia alla Tremonti e che lo rimprovera, lo induce alla vergogna, perché poi la notizia viene fuori e lui è costretto a mostrare quanto sia meschino il modo di accaparrarsi grosse quantità di denaro che permettono il benessere poi familiare. Sì, questo perché sembra le famiglie non si chiedano mai da dove vengano i soldi finché vengono, capito? Dice: posso andare, tornare a vendere le pompe idrauliche, ma cambierà completamente la vita per voi. Perché la famiglia riflette e lo chiamano addirittura prima, lo svegliano prima per tornare a vendere le armi al più presto, perché non rinunceranno a una virgola di questo, preferiscono appunto tornare. È un po' estremo, come è un po' moraleggiante, anche come un po' didascalico, però coglie anche qui un nervo scoperto Sordi, perché non si deve mai scoprire cosa faceva il padre, insomma, il genitore e le sue meschinità devono essere celate alla famiglia. Questa è una... A chi mi ero interrotto con l'ascoltatore Gianni, che fa il fotografo, che aveva qualcosa da raccontarci. Gianni, eccomi. Allora, le cose da raccontare, io ne ho viste tanto. Come fotografo, oltre ad essere un professionista, sono un osservatore. La cosa viene automaticamente, no? E ho fatto saggi di danza, saggi di sfilate di modelle, tante queste cose così, dove c'erano due antitesi, una la figlia lì sopra terrorizzata che ballava come una farfalla appesantita di cemento armato e la mamma contenta che vedeva sto bomboletto, sta bamboletta pesante che saltava e non riusciva a saltare ma faceva dei boom sul palcoscenico pazzeschi, la mamma contenta e pensando al dramma della figlia. Io fotografavo e quando vedevi questa ragazzina che era sgraziatissima perché non riusciva a avere grazia, logicamente la mamma se ne preoccupava, però non pensava al dramma del figlio o della figlia, come quelle che venivano truccatissime per fare le sfilate dei Miss Italia e via. Però io vorrei tornare un attimino indietro, se mi permettete. Vi ricordate un Sanremo, un bambino brasiliano che cantava sul palcoscenico truccatissimo, che era padrone del palco? Non so, non ricordo bene. Un bambino? Era un ragazzo di 12, 13, 14 anni. Mi sfugge questo momento alla memoria. Quello lì era pazzesco, perché praticamente era un bambino che stava buttato sul palco di Sanremo a cantare una canzone di Sanremo. Era avulso da tutto il contesto, ma era praticamente un extraterrestre. Beh, guardi, una volta feci, e questo lei mi può forse confermare una mia idea, un concorso alla radio, ma si parla di tanti anni fa, sarà una decina d'anni fa, si chiamava I Bambini Tristi. Mi accorsi un giorno, guardando le foto della mia prima comunione, io e mio fratello con il vestitino di gabardino nocciola, tristissimi, con la medaglietta, con i pantaloni al ginocchio, con le scarpe che ci facciano male perché non siamo abituati a portarle, quelle lucide strette in punta e via dicendo, che tutte le foto dei bambini rappresentate negli anni del boom economico in realtà erano tristissimi. E a un certo punto mi sono arrivate centinaia e centinaia di foto, ancora internet era agli albori, quindi era una rarità, molte ne arrivavano anche via posta, di foto infantili che erano bambini sulla spiaggia con Ercolino sempre in piedi, con la mucca Carolina, e bambini che dovevano fare la foto col pagliaccio al circo, sopra l'elefantino, in cui sono sempre tristi, in cui i bambini quando vengono rappresentati in contesti di ilare armonia familiare sono sempre tristi. Lei ha avuto quest'idea dei bambini che tristemente sottoponevano delle foto con le famiglie? Sì, come no, ma il problema era sempre quello che la mamma che stava dall'altra parte, il papà che voleva il bimbo ridente, ridi bello di papà, ridi, guarda qui, queste qui facevano delle risate assurde, delle risate a denti stretti e che tremolanti sulla bocca perché non riuscivano e guardavano le mamme e non guardavano a me. Io cacciavo via i genitori e stavo con loro, come facevo con gli sposi quando le fotografavo la sposa dentro la camera a letto, cacciavo via tutti e stavamo io e lei, e c'è stava un'empatia che si sviluppava. Ci credo, è un furbacchione, lei si chiudeva con la sposa solo 30 anni, io dal 72 che sono professionista, lo so. Insegno fotografia all'università, per cui ma certe cose non voglio approfondire, quindi lasciamo una sorta di ombra di dubbio su ciò che accadeva quando cacciava tutti e restava solo con la sposa a fotografarla in camera da letto. Sai, mi è venuta la curiosità. Ma che ruolo ti piace? Centrocampo. A me mi piace libero. Libero è un bel ruolo. Anche libero va bene. Però facciamo l'anno prossimo. Tanto quest'anno il nuoto è già pagato. Ecco, finalmente abbiamo fatto il salto, abbiamo raggiunto la quasi contemporaneità. Questo è un film del 2005, diretto da Kim Rossi Stewart, anche libero va bene. Ecco, cosa è cambiato nel rapporto e cosa invece è rimasto identico? Questo è uno dei più bei film degli ultimi anni sui bambini, con regia di Kim Rossi Stewart, che interpreta anche questo ruolo di padre nevrotico, con un ruolo precario, professionale, fa il cameraman, ma insomma lavora saltuariamente, abbandonato dalla moglie che è in cerca di uomini più ricchi, più solidi, e rimane con questi due figli, in particolare con questo bimbo che il padre vuole campione di nuoto, e la scena più bella del film è il bambino che è primo in questa gara, ossessionato dal padre che lo vuole, lo inscena, come diceva prima il fotografo, lo inscena campione, si dimette dal suo ruolo e si ferma a metà gara e lascia che tutti gli passino davanti appoggiandosi alla corsia appunto si sottrae a questo ruolo, però riuscirà a recuperare un rapporto col padre alla fine, perché finalmente il padre gli concederà di fare il calciatore come a lui piace, anche nel ruolo di libero, che invece è il ruolo che prescende il padre, però si creerà una sintonia alla fine, nonostante le vessazioni subite dal ragazzo nel corso del film, nonostante le pesanti proiezioni paterne che il film lo stesso cala sul figlio, quindi qualcosa quello che è la precarietà dell'oggi di certe figure professionali, che è un po' il dato attuale, ecco questo. Sentiamo Aldo, buongiorno, molto velocemente. Buongiorno, sì. Salve. Sì, io volevo intervenire riguardo al pensiero che è stato espresso più volte riguardo ai messaggi digitali, nel senso che i messaggi digitali vengono considerati come una continuità rispetto ai messaggi cartacei, no? Si parlava appunto di auguri, eccetera. Io posso dire per la mia esperienza che ho fatto, ho studiato materie umanistiche, però mi sono ritrovato per diversi anni a lavorare in progetti internazionali a livello informatico, nel settore informatico, quindi anche sono stato in IBM, eccetera. Io invece continuo a ribadire più di una volta che il messaggio è il mezzo, questo era... secondo me è il messaggio il mezzo, nel senso che è il mezzo su cui viene passato il messaggio che dà una valenza più o meno diversa al messaggio stesso, nel senso che il cartaceo comunque viene, essendo conservato in modo diverso, la valenza che si dà al messaggio comunque è diversa rispetto a un messaggio però non digitale. Vale, scusi, non vale in assoluto. Ci sono persone per cui il cartaceo non è mai esistito. Quindi per loro il cartaceo è qualcosa che non appartiene alla loro capacità di provare emozioni, di accendere comunque dei meccanismi mentali legati al ricordo da un messaggio. Quindi un SMS apre un universo, o perlomeno fa chiudere e morire un universo. Una parola scritta, un bigliettino scritto è qualcosa che non dice nulla, non lascia assolutamente nulla. Nella signora anziana è chiaro che il ricordo emotivo è legato allo scatolone con le foto, ma per il suo nipote comunque aver fatto la lettera per la nonna è un grosso sforzo fatto soltanto per compiacere la nonna, per lui non c'è nessun rilascio emotivo in quella lettera. Ma voglio dare un ultimo grande, favoloso omaggio all'unico grande figlio che in realtà rappresenta una conquista quotidiana per i propri genitori. E mammina dov'è? Mammina sarà uscita a comprare del pane. Tesoro mio, siediti qui vicino a tuo padre. Vedi, amore, ormai tu sei grande. Se mammina, che è buona come il pane, peraltro, ci dovesse lasciare, che sarà di noi? Non ti preoccupare. Giuseppe Sansonna, quale grande, profonda, incolmabile tragedia in Fantozzi, che deve spiegare alla figlia babuina, che poi è rappresentata da un attore maschio, il fatto che la madre se ne stava andando in una sorta di delirio sessuale per Abate Antuono Fornaio, che dava doppi sensi osceni sullo sfilatino, in una battuta. Con l'alito tipo Pogna di Calcutta. Sì, lei è il correlativo oggettivo della bruttezza metafisica. Plinio Fernando, alias Mariangela Fantozzi, cita Hayward, come dice Fantozzi stesso in un film, citando l'attrice. E naturalmente questo è il vero limpido segno che in fondo ogni figlio è bello per i propri genitori, il rapporto fra genitori e figli è il più ineffabile, il più difficile e il più ardimentoso risalita di una montagna che possa essere fatta mai. E Fantozzi ne è il testimone più impavido. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.